L'iniziativa nasce da diversi gruppi che ci siamo incrociati dopo tutto quello che stiamo vivendo in questo momento, con l'esigenza un po' di confrontarci e portare fuori anche un pensiero contro la deriva molto bellica che si sta vivendo nella società. Quindi dopo un momento iniziale di un'assemblea che si è tenuta nel mese di aprile abbiamo deciso di fare un incontro di approfondimento invitando delle persone competenti per poter discutere sulla vicenda della guerra, non solo Russia nei confronti dell'Ucraina, ma anche nell'aumento delle spese militari, tutto quello che sta avvenendo in maniera molto veloce in queste settimane in Italia, così come a livello mondiale. A questa assemblea ha fatto parte realtà molto anche diverse fra loro, ma con una posizione comune, no? Sì, sono realtà diverse, sia di ispirazioni del mondo cattolico come il mondo comboniano, o anche realtà legate più al mondo dell'attivismo militante, ma proprio perché quello che ci unisce è l'idea di portare avanti un'idea di pace e soprattutto di bloccare l'aumento sia delle spese militari ma anche della corsa agli armamenti, che sembra avviato a una velocità notevole rispetto a quanto si avveniva in passato. Quindi, ma è un qualcosa che si collega con quello che si sente nella popolazione. Qualsiasi sondaggio si va a vedere in questi mesi mostra come la popolazione italiana sia contraria ad un aumento delle spese militari, all'invio di armi, però c'è questo timore di una escalation che non sappiamo che possa portare. Quindi anche se abbiamo provenienze differenti, siamo accomunati da questa idea di impegnarci attivamente per la pace contro un'escalation militare e soprattutto un drenaggio di risorse pubbliche che vanno a finanziare l'acquisto di armi e il mondo della produzione delle armi a discapito di altri settori sociali dello Stato, come possa essere l'assistenza sanitaria, l'istruzione, lo stato sociale. Quindi somme che vengono spostate in contesti differenti, togliendo invece risorse a chi magari in questo momento, dopo 2 anni di crisi dovute alla pandemia e alla crisi che ora si sta aprendo con la guerra, magari ci sono tante fasce di popolazione che avrebbero bisogno di questo sostegno. Chi interverrà all'incontro? Ma l'intervento previsti sono dal vivo sono sia il Fulvio Scaglione, che è un giornalista, già vice direttore di Famiglia Cristiana per tanto tempo, inviato in Medio Oriente, quindi conosce molto bene quella realtà, e Giorgio Beretta, che è un attivista dell'Osservatorio sulle armi leggere di Brescia, della rete italiana Pace e Disarmo, quindi una rete che si occupa di studio tutto quello che riguarda gli armamenti in Italia, e la senatrice Cinzia Laporta dell'USB, che si è occupata soprattutto per quanto riguarda alcune iniziative molto importanti di lotta non violente che riguarda lo sciopero dei portuali a Genova e anche l'invio di armi che è avvenuto da Pisa, dall'aeroporto di Pisa verso l'est Europa. E poi ci sono dei contributi pre-registrati in video sia del missionario comboniano Alex Zanotelli, direttore di Nigrizia per tanti negli anni 80, missionario in Kenya e molto attivo in diverse lotte sociali e tra cui anche l'impegno per la pace, e il fisico Angelo Baracca, che è attivista antinucleare. Infatti una delle tematiche che verranno portate anche il sostegno al trattato per la messa al bando delle armi atomiche, ratificato, entrato in vigore nel 2021, un contratto ratificato da 50 stati, al quale l'Italia ancora non ha aderito, che però consente di poter togliere la presenza di armi atomiche dal suolo italiano e di gli stati che aderiscono a questo trattato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Quindi ci sono tanti strumenti che possono essere utili nell'impedire un'escalation militare e tante attività che si stanno impegnando in ciò. L'idea è anche quella di sostenere tante iniziative che già ci sono diversi anni, che chiedono un cambio di rotta da una politica che negli ultimi decenni ha visto sempre aumentare di più le spese militari a livello globale, rischiando poi di innescare processi come adesso, che poi è difficile da risolvere nell'immediato. Tornando al titolo dell'iniziativa, che è anche un po' provocatorio, insomma, il pacifismo non è obsoleto. No, non è obsoleto, è provocatorio perché è preso da una frase detta dal cancelliere tedesco Scholz, che durante un incontro il primo maggio fece questa dichiarazione dicendo che il pacifismo era ormai qualcosa di obsoleto, e invece non è vivo più che mai, anzi tutte le iniziative pacifiste sono ben strutturate e attive negli anni proprio per evitare la possibilità di nuovi conflitti, come tutta la rete che si è creata, che ha sostenuto il trattato per la messa al bando delle armi atomiche, che ha vinto anche il Nobel per la pace qualche anno fa, o le varie campagne. C'è la campagna, ad esempio una famosa campagna in Italia, la campagna contro le banche armate. Da poco è stato appena pubblicato il report in cui sono indicate tutte le banche in Italia che investono in armamenti, ed è una forte campagna di sensibilizzazione in cui sono impegnate diverse riviste missionarie come Nigrizia o Mosaico di Pace, nelle quali si chiede alle persone di vedere la propria banca che cosa fa con i soldi in cui depositiamo nei conti correnti e decidere se tenere i soldi in una banca armata o spostarli in una banca che ha un comportamento più etico, sostenibile e che non investe in armi o altri settori annessi. Il pacifismo è sempre attivo, spesso sotto traccia dagli occhi pubblici, però è sempre attivo nel confronto di evitare che la guerra prenda sopravvento e per far sì che il concetto più volte espresso da Gino Strada di che la guerra è un concetto che deve essere abolito diventi sempre più reale, concreto.